Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti al nostro appuntamento. Nel mese di maggio del 1964, spinto da un impulso irresistibile, mi sono inginocchiato davanti a Dio. Ho chiesto perdono dei miei peccati, mi sono reso a Gesù Cristo, dandogli la mia vita, consacrandola a Lui. Da quel giorno l'ho accettato come il Dio della mia vita e testimoniavo di quella mia scelta a tutti. Però devo ammettere che per molto tempo ho creduto alla divinità di Gesù solo per fede. Mi trovavo imbarazzato nel testimoniare che Gesù sia Dio, perché non avevo un supporto razionale a ciò che credevo. Poiché condivido la definizione della fede data da Lewis, cioè continuare a credere in ciò che in tutta onestà ritenevamo essere vero, finché non ci vengono poste davanti delle prove ragionevoli per farci cambiare idea, volevo avere un supporto ragionevole per la mia fede. Diversamente, ero anche disposto a cambiare idea. Ci sono voluti degli anni perché avessi delle ragionevoli ed obiettive ragioni per credere nella divinità di Gesù. Inoltre, ho notato con stupore di non essere stato il solo a trovarsi in difficoltà, provando a dare una spiegazione razionale circa la divinità di Gesù Cristo. Tanti figli di Dio non sono in grado di farlo, per cui sono felice di poter ora considerare i motivi per i quali oggi credo che Gesù sia Dio. Forse è saggio iniziare abbattendo prima alcune idee sbagliate. La maggioranza delle persone è serena in coscienza davanti a Dio perché non ha nulla contro Cristo. Anzi, alcuni sono soddisfatti perché credono che egli sia più che un uomo. Altri credono che Gesù sia un grande maestro di morale, un essere divino. C'è chi crede che sia un grande profeta, un santo, un perdonatore. Altri credono che sia un giusto, un capo religioso e altri ancora il Messia. Queste opinioni, come vedremo nel corso delle nostre trasmissioni, non appagano la volontà di Dio di credere in Gesù Cristo. Perché, come disse Gesù, vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Questa affermazione, così lapidaria e determinante per la nostra fede, deve essere compresa. Gesù non ha chiesto di essere riconosciuto come un essere divino. Egli chiede di essere riconosciuto e accettato come il Dio presente nell'Antico Testamento, né più né meno. Ogni altra valutazione o credenza sulla sua persona è insufficiente per la salvezza. Le seguenti riflessioni che faremo metteranno in evidenza che Gesù è Dio, perché la parola di Dio lo afferma, perché Lui stesso lo ha affermato, perché è stato adorato, perché gli attributi di Cristo sono quelli di Dio, perché perdonava i peccati, perché il processo di Gesù è stato unico, perché è stato il messaggio degli Apostoli e infine Gesù è Dio perché ha dichiarato di essere il Creatore, Yahweh. Quindi prendiamo ora in esame questi aspetti. Iniziamo a considerare che Gesù è Dio perché la Bibbia lo afferma. Ecco come inizia l'Evangelista Giovanni il suo Evangelo. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e Dio era la parola. Egli, la parola, era nel principio presso Dio. E ancora leggiamo nella lettera agli Ebrei, al capitolo 1, le seguenti parole. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli disse mai: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»? E di nuovo: «Io gli sarò padre, ed egli mi sarà figlio». E ancora, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: «E lo adorino tutti gli angeli di Dio». Ma degli angeli dice: dei suoi angeli fa dei venti e dei suoi ministri una fiamma di fuoco. Del Figlio invece dice: «O Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli, lo scettro del tuo regno è scettro di giustizia. Hai amato la giustizia e odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni». Se crediamo che la Bibbia sia la parola inerrante di Dio, è evidente che ci rivolgeremo ad essa per conoscere le sue asserzioni in relazione alla natura di Cristo. L'Apostolo Giovanni inizia il suo Evangelo dichiarando che la parola, cioè Gesù Cristo, era nel principio presso la Deità e che Lui stesso era Dio. L'autore della lettera agli Ebrei, pur riconoscendo il ruolo importante degli angeli, dichiara Dio il Figlio. Nessun giudeo, nessuno che avesse avuto la fede nell'Eterno, rivelatosi sul monte Sinai, poteva attribuire il titolo Dio ad un semplice uomo. Il suo monoteismo assoluto glielo avrebbe impedito. La difficoltà di un ebreo nell'accettare la divinità di Gesù è paragonabile a quella di un musulmano che debba accettare la Trinità. Gesù Cristo è stato, dai santi e fedeli ebrei, suoi seguaci, dichiarato e riconosciuto quale Dio, al punto che per questa fede sono stati pronti a morire come martiri. Gesù è più che un uomo. Come disse Byron, se mai un uomo è stato Dio, o Dio è stato un uomo, Gesù è stato ambedue. Il fatto che Gesù sia Dio, oppure no, non è da sottovalutare, perché noi uomini possiamo essere salvati soltanto da Dio stesso. Se Gesù non è Dio, allora sulla croce è morto un semplice uomo, e noi siamo ancora perduti. Gesù è Dio perché Gesù stesso lo ha affermato. Ecco che cosa leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8, dai versetti 51 a 59. Gesù disse: in verità vi dico che se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte in eterno». Gli dissero dunque i giudei: «Ora conosciamo che tu hai un demone. Abramo e i profeti sono morti. Tu invece dici: se uno osserva la mia parola non gusterà mai la morte in eterno. Sei tu più grande del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere?» Gesù rispose: «Se io glorifico me stesso, la mia gloria non è nulla. È il mio Padre che mi glorifica, quello che voi dite di essere vostro Dio. ma voi non l'avete conosciuto. Io però lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. I giudei dunque gli dissero: «Tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono». Allora essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio, passando in mezzo loro, e così se ne andò. Gesù ha detto di essere la verità. O era un bugiardo, proprio per ciò che ha sostenuto, oppure è veramente la verità. Ma Gesù Cristo non ha mai mentito, nessuno mai lo ha smentito o ha potuto contraddirlo. Per cui le asserzioni su se stesso sono da ritenere valide. In una ennesima conversazione coi giudei, Gesù ha sostenuto di aver visto Abramo. I giudei sono stupiti di tale affermazione. Beh, chi di noi non lo sarebbe stato? Ma Gesù, per far comprendere maggiormente la sua natura divina, afferma di essere il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Se egli avesse detto semplicemente di essere Dio, i giudei lo avrebbero sopportato come si sopporta un pazzo. Ma questa identificazione con Yahweh, il creatore, per loro era troppo. A questo punto, i giudei, depositari della teologia ebraica, cercano di lapidarlo. Qualsiasi interpretazione noi attribuissimo alle parole di Cristo «Io sono», resta comunque evidente la totale assenza di dubbio da parte dei suoi contemporanei che Gesù stesse sostenendo di essere Dio. Questa è anche la ragione fondamentale per cui gli ebrei lo crocifissero. Non essendo Gesù stato crocifisso per la sua pretesa di essere Dio, non ci sarebbe altra spiegazione della sua morte, se non quella che si stesse trattando di una giusta condanna. Gesù è più di un grande maestro di morale. Un'altra prova che Gesù è Dio è perché egli è stato adorato. Ecco che cosa leggiamo nella lettera agli ebrei. Infatti, a quale degli angeli disse mai: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato», e di nuovo: «Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio». E ancora, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: «E lo adorino tutti gli angeli di Dio». E ancora nel Vangelo di Luca leggiamo: «Poi Gesù condusse fuori i discepoli fino a Betania e, alzate in alto le mani, li benedisse. E avvenne che, mentre egli li benediceva, si separò da loro e fu portato su nel cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia». Se pensiamo che l'adorazione spetta solo a Dio, che Paolo, Pietro e perfino gli angeli rifiutarono l'adorazione degli uomini, il fatto che Gesù sia stato adorato sia dagli uomini sia dagli angeli non può passare inosservato. Siamo di fronte al più grande evento religioso che la storia conosca. I discepoli, adorando Gesù come Dio, si comportarono contro tutti i dettami della loro cultura ed educazione. Il gesto di Gesù di accettare senza esitazione l'adorazione della sua persona può significare solo due cose. O egli dichiarava e testimoniava di essere veramente Dio, oppure era il più grande impostore che la storia abbia conosciuto. Gesù è stato l'unico giudeo adorato dagli altri giudei, proprio da coloro che lo videro in tutti gli aspetti caratteristici della sua umanità. Adorando Gesù Cristo, i discepoli riconoscevano che Dio si era incarnato, testimoniavano che il Dio invisibile aveva assunto un corpo per vivere tra gli uomini come uomo. Il culto dato a Cristo non sarebbe altro che idolatria sacrilega, il peccato più grande di tutti, se egli non fosse Dio. Gesù, allora, è più che un essere divino. Proprio per questo noi dedichiamo, cari ascoltatori, tempo e denaro per farlo conoscere a tutto il mondo. Per oggi terminiamo qui le nostre riflessioni e a risentirci alla prossima per continuare la nostra testimonianza del perché i cristiani credono che Gesù sia Dio, che egli faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per considerare la divinità di Gesù Cristo. La volta scorsa abbiamo considerato che i cristiani credono alla divinità di Gesù perché la Bibbia lo afferma, perché Gesù stesso lo ha affermato, perché è stato adorato. Oggi vediamo altre ragioni per cui i cristiani affermano che Gesù è Dio. Gesù è Dio perché gli attributi di Cristo sono quelli di Dio. Se Gesù non fosse Dio, o fosse un Dio inferiore, gli attributi che la Scrittura gli ascrive e che Gesù stesso si attribuisse sarebbero un furto, un'impostura. Prendiamo un solo esempio. Nel libro di Isaia, il capitolo 54. Ascoltiamo. Non temere, perché non sarai confusa. Non avere vergogna, perché non dovrai arrossire. Dimenticherai anzi la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza. Poiché il tuo Creatore è il tuo Sposo, il suo nome è l'Eterno degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, chiamato Dio di tutta la terra. È innegabile che l'Eterno, il Creatore, si sia definito lo Sposo. Ebbene, a nessuno è mai stato attribuito tale titolo o immagine se non a Gesù Cristo. Gli stessi discepoli, ebrei di cultura, hanno riconosciuto che egli è lo Sposo della Chiesa. Gesù Cristo, che era giudeo tra i giudei, nella parabola delle 10 vergini si è presentato come lo sposo. Ascoltiamo. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Ora 5 di loro erano avvedute e 5 stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido. «Ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute, «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi». Ma le avvedute rispondendo dissero, «No, perché non basterebbe né a noi né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene». Ora, mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. Le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini dicendo «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispondendo disse «In verità vi dico che non vi conosco». Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà. Con questa parabola, Gesù non ha voluto mettere in guardia la Chiesa, come alcuni pensano, ma il popolo di Israele. Rimanendo nell'immagine del ritorno dello sposo, la sposa, senza ombra di dubbio, è la Chiesa, per cui le vergini non possono che rappresentare il popolo di Israele. Quindi, gli attributi di Gesù lo pongono allo stesso livello di Dio, come se non ci fosse alcuna differenza. I titoli e i nomi che i primi cristiani gli hanno dato e quelli che egli stesso si è attribuito dimostrano che Gesù Cristo e Dio sono la stessa persona. Gesù è più che un grande profeta. Un'altra prova che Gesù è Dio è perché egli non ha mai commesso nessun peccato. Ecco che cosa leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8. Gesù disse: «Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete ascoltare la mia parola? Voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, perciò voi non le ascoltate, perché non siete da Dio». Gesù ha sfidato i suoi contemporanei, che lo conoscevano molto bene, di trovare in lui una qualsiasi colpa. La santità e la totale assenza di peccato in Gesù sono senza ombra di dubbio una testimonianza a favore della sua divinità. Nessun essere umano può essere perfetto, senza colpa, a meno che questo uomo sia Dio. Neppure Maria, la madre di Gesù, può essere immacolata, perché la Scrittura afferma categoricamente che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e che non vi è neppure un giusto, neppure uno. L'apostolo Giacomo afferma che se uno non sbaglia nel parlare, egli è perfetto. A chi non è mai sfuggita una parola in più? Chi è colui che non ha mai condannato un comportamento che un giorno lui stesso riteneva giusto? Gesù non ha mai sbagliato sia nel parlare che nell'agire. Nessuno ha mai trovato in lui colpa alcuna, tant'è vero che quando lo hanno voluto accusare per condannarlo, hanno dovuto stravolgere il senso delle sue parole. La cosa sorprendente è che anche il Corano, scritto 300 anni dopo e che non ha nessun vantaggio ad affermarlo, riconosce che Gesù sia senza peccato. Gesù è più che un santo. Egli è colui che viene definito nella parola di Dio il Santo di Israele, cioè l'Eterno. Un'altra prova della divinità di Gesù è perché egli perdonava i peccati. Ascoltiamo la lettura nel Vangelo di Marco al capitolo 2. Alcuni giorni dopo, egli entrò di nuovo in Capernaum e si venne a sapere che egli si trovava in casa. E subito si radunò tanta gente da non trovare più posto neppure davanti alla porta. Ed egli annunziava loro la parola. Allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralittico, portato da quattro uomini. ma non potendo accostarsi a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto ove era Gesù e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Come Gesù vide la loro fede, disse al paralitico: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Ora vi erano là seduti alcuni scribi, i quali ragionavano in cuor loro: «Perché mai costui parla in questo modo? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano queste cose dentro di sé, disse loro: «Perché ragionate voi queste cose nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati in terra, io ti dico», disse il paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua». Ed egli si alzò immediatamente, prese il suo lettuccio e uscì in presenza di tutti, così che tutti stupivano e glorificavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Anche questo episodio non può passare inosservato. Se pensiamo che solo l'Eterno Dio possa perdonare i peccati, l'atteggiamento di Gesù di rimettere i peccati commessi verso Dio è significativo, ma soprattutto unico. Un uomo è chiamato a perdonare i peccati commessi verso di lui, ma non nei confronti di Dio. Se potesse fare questo, sarebbe più grande di Dio, perché mentre Dio perdona il peccato commesso da una creatura inferiore, l'uomo rimetterebbe il peccato commesso nei confronti del suo creatore. Gesù, non potendo proclamare la propria divinità in modo evidente, perché questa verità sarebbe stata troppo violenta per dei giudei, si comportava come l'Eterno Dio, affinché i fatti potessero aiutarli ad accettare la sua divinità. Egli, infatti, non solo dichiarava che i peccati erano rimessi, cosa che alcuni uomini ancora oggi fanno, ma effettivamente li perdonava. Secondo la legge e la dottrina giudaica, nessuno, per nessuna ragione, poteva perdonare i peccati commessi contro Dio. Se Gesù non fosse stato Dio, avrebbe usurpato un diritto che spettava solo all'Eterno. Con coerenza al loro modo di comprendere, i giudei, credendolo solo un uomo, cercarono di lapidarlo, testimoniando ancora una volta che egli si dichiarava e si comportava come Dio. Gesù è più che un perdonatore. Un'altra prova della divinità di Gesù è perché il processo al suo riguardo è stato unico. Ascoltiamo la lettura nel Vangelo di Marco, al capitolo 14. Allora il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma egli tacque e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: «Sei tu il Cristo, il figlio del benedetto?» E Gesù disse: «Io sono. E vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nuvole del cielo». Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» E tutti lo giudicarono reo di morte. Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a bendargli il viso, a dargli degli schiaffi e a dirgli: «Indovina!» e le guardie lo percuotevano. Nella maggior parte dei processi, le persone sono giudicate per ciò che hanno fatto, ma non è ciò che accadde a Cristo. Egli fu giudicato e condannato per quello che era. Il suo processo penale fu quindi unico, perché non furono tanto discusse le sue azioni, ma la sua identità. È evidente in tutti i Vangeli che il crimine per il quale Gesù fu processato e condannato fu la bestemmia, cioè la testimonianza che egli dava alla propria deità. Ancora una volta, alla richiesta se egli fosse stato il Figlio di Dio, Gesù rispose che egli era Yahweh, il Dio dell'Antico Testamento. Gesù Cristo fu l'unico uomo al mondo messo a morte perché sosteneva non solo di essere Dio, ma di essere colui che si era rivelato ad Abramo, a Mosè, ad Isaia. Gesù Cristo non morì come un uomo di Dio, ma come Dio fatto uomo. Gesù è più che un giusto. Bene, con queste riflessioni vi lascio per darvi l'appuntamento alla prossima per terminare questa importantissima dottrina della fede cristiana. Non mancate, perché la conclusione può cambiare radicalmente e in positivo la tua vita. Ciao a tutti. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi porgo un saluto sincero e affettuoso. Terminiamo oggi le nostre riflessioni in merito alla divinità di Gesù. Nelle due precedenti trasmissioni abbiamo affermato che Gesù è Dio perché la Bibbia lo afferma, perché Gesù stesso lo ha affermato, perché è stato adorato, perché gli attributi di Cristo sono quelli di Dio, perché non ha commesso nessun peccato, perché perdonava i peccati e infine perché è stato processato come uomo che affermava di essere Dio. Oggi consideriamo un'altra ragione per cui sosteniamo che Gesù è Dio, per poi fare ulteriori riflessioni. Gesù è Dio perché è stato il messaggio degli Apostoli. Ascoltiamo ora la lettura nel Libro degli Atti, al capitolo 9. Anania dunque andò ed entrò in quella casa, e imponendogli le mani disse: «Fratello Saulo, il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno di Spirito Santo». In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e riacquistò la vista. Poi si alzò e fu battezzato. E dopo aver preso cibo, egli recuperò le forze. Poi Saulo rimase alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco e subito si mise a predicare il Cristo nelle sinagoghe, proclamando che egli è il Figlio di Dio. E tutti quelli che lo udivano stupivano e dicevano: «Non è costui quel tale che a Gerusalemme perseguitava tutti coloro che invocavano questo nome? Ed è venuto qui col preciso scopo di condurli prigionieri dai capi dei sacerdoti». Ma Saulo confondeva i giudei che abitavano Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Non dobbiamo mai perdere il contatto con la realtà storica. Non vi è nulla di più assurdo per un giudeo che affermare la divinità di un essere umano. Per i giudei, Dio non può avere un corpo. È impossibile. Ciò è contro tutti i dettami della loro cultura. Eppure Paolo, un giudeo nato in Tarso di Cilicia e allevato a Gerusalemme ai piedi di Gamaliele, educato nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo di Dio, subito dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, annunciò che Gesù

persone sussistono in un solo Dio rende molto difficile la comprensione della Scrittura. Giacché il Padre non è il Figlio e neppure lo Spirito Santo, e considerato che il Figlio si distingue dal Padre e dallo Spirito Santo, molto facilmente si può cadere nell'errore di scambiare una persona della Trinità per un'altra. Così, quando leggiamo articoli e studi sulla persona di Dio, espressione del resto errata, perché in Dio sussistono tre persone, o sui suoi attributi, non riusciamo ad avere nella nostra mente una netta distinzione riguardo chi sia la persona cui si sta riferendo, finendo in tal modo per attribuire tutto alla persona del Padre. Citando per lo più l'Antico Testamento, alcuni scrittori affermano che Dio, ovviamente sottointendendo il Padre, è tre volte santo, onnisciente, onnipotente, onnipresente, giusto, immutabile, verace, amore. Ma da una lettura anche non impegnativa possiamo verificare che gli attributi ora citati sono attribuiti a Yahweh, il Dio dell'Antico Testamento, e non alla persona del Padre. Dato che Yahweh è Gesù Cristo, elencando gli attributi di Dio, elenchiamo in realtà le caratteristiche di Cristo. È vero che la natura di Cristo è uguale a quella del Padre, e per questo il Figlio e il Padre sono uno, ma non possiamo fare di tutte le erbe un fascio per quello che riguarda le loro persone. È il Padre che ha dato il Figlio per la salvezza dell'umanità, è il Figlio che è morto in croce, è lo Spirito Santo che rigenera chi crede. Così, per una corretta comprensione del nostro messaggio e della nostra fede, proporrei di riferirci a Yahweh parlando della persona del Dio dell'Antico Testamento, al Padre quando sottointendiamo la persona di Dio Padre e a Dio quando vogliamo intendere la Trinità. Questo invito può sembrare inutile, perché parlando di Dio, a volte ci si riferisce alla sua natura, per cui non è mai sbagliato affermare che Dio sia tre volte santo, perché tale affermazione è riferita sia al Padre che allo Spirito e al Figlio. La mia preoccupazione è un'altra. Siccome per molti anni ho sempre applicato la parola Dio al Padre, a meno che non venisse specificato che essa era riferito a Cristo, allo Spirito Santo, e notando che la mia interpretazione sbagliata è comune a molti, trovo sia opportuno che parlando o scrivendo riguardo a Dio si specifichi a quale persona della Trinità ci si voglia riferire esattamente. Perché Dio è uno, è vero, ma non è solo uno. I detrattori della fede cristiana negano la divinità di Gesù Cristo sulla base della parola di Dio. Prendiamo in esame alcune apparenti contraddizioni in relazione alla divinità di Gesù. Nel Vangelo di Giovanni noi leggiamo: il Padre è maggiore di me. E nel Vangelo di Matteo: ma quant'è a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il Figliuol dell'uomo, ma il Padre solo. E ancora leggiamo nella prima lettera ai Corinti le seguenti affermazioni: il capo di Cristo è Dio. E ancora: poi verrà la fine, quando egli avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre. Ed ancora: il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. La spiegazione a queste proposizioni è la seguente. Fin dall'eternità Cristo è, per posizione, subordinato a Dio Padre. Nella redenzione egli cambia, incarnandosi, la sua sovranità in servitù, sottoponendosi al Padre rimasto nella gloria del cielo. La subordinazione del Figlio al Padre si realizza dunque fondamentalmente nell'ambito delle funzioni e delle attività. Questo permette al Padre di essere ufficialmente il primo e al Figlio di essere il secondo, in perfetta coerenza con l'uguaglianza. La precedenza non è infatti necessariamente indice di superiorità. La possibilità che esiste un ordine di precedenza, senza che questo implichi disuguaglianza, è dimostrata chiaramente nell'esempio biblico del rapporto uomo-donna. Secondo la Scrittura, per quanto riguarda le funzioni, l'uomo è il primo e la donna la seconda, ma resta il fatto che la persona femminile davanti a Dio abbia lo stesso valore e la stessa importanza di quella maschile. Il linguaggio di Gesù, che sembra avallare una sua supposta inferiorità rispetto al Padre, va quindi esaminato e capito in relazione alla posizione di Cristo e alla sua attività, ma non riguarda mai la sua essenza divina. Dopo queste riflessioni, la conclusione non può essere altra se non che la persona di Gesù Cristo è unica nella storia dell'umanità. Dopo 20 secoli, egli è il personaggio più importante del genere umano. Tutti gli eserciti, tutti i parlamenti, tutti i re del mondo, tutti quanti messi insieme, non hanno influito così potentemente sulla vita e sulla storia dell'uomo. E questo perché Gesù Cristo non è solo un uomo, ma anche Dio. Per questa ragione, quello che lui ha affermato non ha paragoni di nessun genere. Quando disse: «Io vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati», sosteneva di essere il nostro Creatore, il nostro Salvatore, il nostro Re, Pastore, il nostro Dio che ci ha fatto conoscere la persona del Padre e dello Spirito Santo. Cosa comporta tutto questo? Se Gesù è Dio ed Egli è morto per me, allora Egli è degno di essere adorato e servito, per cui non vi è sacrificio troppo grande che io possa compiere per Lui. Che Gesù Cristo vi dia di cogliere il senso e lo spirito della Sua parola per consacrare la vostra vita a Lui. Amen.